inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Music for Youth, Moving on the Christ, the procession is grouping, ossia avanti col Cristo che a processione si ingruma. Buonasera Lele, ben ritrovati sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio San Donà, una nuova puntata di Music for Youth e un nuovo ospite che andrò testè a introdurre. Vuoi salutare magari o stai lì nel tuo abisso di insipienza? Ho lasciato cominciare te per una volta, eri pure restio, adesso non prenditi lo spazio che non ti meriti. Esatto, ritorna nel tuo buco. Ciao Al, procedi pure. Bene, e abbiamo finalmente con noi, perché loro erano in scaletta fin dagli albori di questo programma. Sì, sì, proprio quando ancora non era stata inventata la ruota. Esatto, noi abbiamo i Maioldo Olivetti. Tutto tacà. Ciao ragazzi, salutate pure, manifestate le vostre voci in queste grotte dove è stato appena inventato il fuoco dopo la ruota, o forse la prima, vabbè, parlate, dite qualcosa. Ciao, ciao a tutti, siamo i Maioldo Olivetti, tutto attaccato. Tutto attaccato, perché mi sa che loro ci tengono su questa cosa, non so. Ma magari anche sì, quelli dell'Olivetti che avranno un copyright sul nome Olivetti. Poi si dissentono e fanno delle vocine tipo... Stefano. E lanciano dei calcolatori. Ciao a tutti. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ve la passate? Male. Sì, andiamo avanti. Teniamo sì, le porte aperte nello studio perché loro stavano già boccheggiando, sappiate che fa molto caldo. Sì, infatti io e il mio socio qui di fronte ci siamo provvisti di degli 4 Abre Magique che a coppie di due teniamo sotto le ascelle. Infatti il locale è aerato oggi. Aerare i locali prima di condizionare. Esatto, è così che prima si di soggiornare. Prima di soggiornarvi, cosa sto dicendo? Beh, ma anche se vuoi prima di condizionale, come proprio come verbo. Prima del condizionale. Esatto. Comunque parliamo di qualcosa di più serio. Non so, cosa cominciamo? Con la storia di Maioldo Olivetti o diamo spazio a qualche domanda cialtrona, poi un po' di musica e poi approfondiamo? Io partirei subito con perché questo nome. Infatti. Cioè, perché... Io spero che ve lo chieda qualcuno, non so, le vostre famiglie. Sì, qualcuno ce lo chiede. Beh, Maioldo Olivetti, la mia vecchia Olivetti è... si riferisce alla macchina da scrivere, semplicemente alla famosa Olivetti lettera 22, utilizzata da Montanelli e da Biagi, quindi una macchina da scrivere che ha fatto un po' la storia, ecco, un po' così, un omaggio, ma insomma poi in realtà questa è la risposta che solitamente diamo in radio, ma in realtà mi stavo facendo la barba e alla sera dovevo presentare un nome al gruppo, così, perché dovevamo iscriverci ad un concorso e mi è venuto questo. Io pensavo si fosse svegliato nella notte sparando tipo 24, 69, 88 sulla ruota di Bari, Maioldo Olivetti. Tutto attaccato con 24-69 probabilmente. Detto, magari gli è venuto in mente di colpo, perché poi uno si chiede cosa cavolo ti fa venire in mente. No, ma perché è proprio bello Maioldo Olivetti. Sì, suona bene. Ti riempie la bocca. È come tipo un marshmallow. Sì, quelle caramelle gommosissime, quelle bianche dentro con il copertone rosa fuori. Ecco, io non direi copertone. Va bene comunque. Sono un po' di masticare un copertone. Sì, le fa la Dunlop quelle caramelle lì. Io devo aver mangiato quelle della Pirelli. Infatti un po' più pastose, io non te le consiglio. Perché sono più adatte con la pioggia, secondo me. Sì, sì, per le bocche slick. Esatto. Bene, dopo questo diciamo manipolo di manigoldi che sparano solo che boiate, ecco, in periture. E potrei anche ricollegarmi con un qualcosa di pneumatico, a parte il vuoto che c'è nel mio cervello. bello. Esatto. La potenza è nulla senza controllo, quindi noi ai controlli continuiamo a avere l'ele. Purtroppo non Johnny Greenwood dei Radiohead e continuano bestia. I riferimenti strastudiati solo per darci un tono. Esatto. Però ci assomiglia un po'. Come assomiglia a Johnny Greenwood? Attenzione, c'è no, una no, svolta. È Johnny Greenwood. Taglio di capelli. È Johnny Greenwood che assomiglia a te. Ah. Vabbè, ah, allora dovrei forse fargli causa. Esatto, sì, sì, sì. No, perché se l'ha detto di Ryan Adams, su questo mi trovate d'accordo, però su Johnny Greenwood devo ancora verificare. Grazie comunque. Io non avevo notato, però guarda, cioè... Un taglio di capelli un po' così... Vabbè. Anche un po' Little Tony, oggi. andiamo a parlare di qualcosa di serio. Sì. Uno che ha fatto la storia degli anni 90. Sì. Che ha saputo mischiare tantissimi generi tutti assieme. Sì. Il soul, il funk, ha collaborato con Prince, il rock, l'hip hop. Prince non se n'è accorto, però. Secondo me anche sì, dai. Insomma, diamogli i meriti che... diamogli i meriti che si merita, voglio che dire. Che si merita. A Cesare quel che è di Cesare, e specifichiamo non è ragazzi. Moderna. Si parla di Beck. Beck Hansen, da Los Angeles con furore. Io spero piaccia anche ai nostri ospiti Maioldo Olivetti di questa sera. Noi vi portiamo un pezzo che è estratto da Odelay, una delle pietre miliari, secondo me, straconsigliate. Andatevi a leggere la recensione e guardatevi la copertina, perché c'è un mocio a forma di cane che salta un ostacolo, per cui secondo me merita una divagazione visiva almeno per un quarto d'ora, soprattutto sotto l'uso di acidi. Sì, sì, sì. Anche il cane quella volta lì ha avuto i suoi fastidi a fare il tutto. Guarda che era un mocio, non era un cane. O forse era un cane vestito da mocio. Forse era un cane. Tu dici? E qui si apre una querelle o querelle. Se volete intervenite in trasmissione e ditecelo. Fateci sapere. Pensate che sia un cane? Pensate che sia qualcosa che ha prodotto la Vileda? Comunque, questo Beck, dopo lo sfolgorante inizio di un suo album del quale non ricordo minimamente il titolo, ha detto Gold qualcosa. E vabbè, ha detto sto qui a ripetere sempre la stessa storia, la stessa noia. No, e infatti lui ha fatto sempre un CD diverso, più o meno, con tantissime contaminazioni. Tante volte mischiando anche cose di elettronica, di, come dicevi prima giustamente, funk, soul. L'anima comunque è fortemente rock, secondo me, fin dall'inizio. Assolutamente sì, il sostrato, quello che resta sotto è molto rock. È il muschio, diciamo. Come ho detto la scorsa puntata, è il muschio. Il l'humus resta sempre rock. Kenny. Tra gli ultimi suoi lavori che a me sono piaciuti parecchio, Gero, che è stato totalmente remixato con Gero Lito, cioè tutte le tracce specularmente sono state remixate, e Modern Guilt, che mi pare sia l'ultimo, forse, almeno che non abbia detto l'ennesima boiata, ma so già che mi potrà correggere. Salutiamo i Gain on Top. Sì, sì, sì, ciao Simone, dagli una mano tu per cortesia. Perché qui la neuro tarda ad arrivare, i soccorsi sono in netto ritardo. Andiamo a sentirci Beck e questa andiamo a sentirci Beck, sì, sì. Devil's Haircut su Music for Youth. Something's wrong cause my mind is fading. And everywhere I look there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Devil's Haircut da Odaley, questa era Back, Radio Sherwood 97-800, Radio Sandona 102-200, bentornati a Music for Youth. Mi prendo io la parola dopo che ero stato un po' in disparte perché Alvise mi ha cacciato in un buco fondo chilometri. No, io vorrei notare che ti sei tu autoescluso, ma cioè ci capiamo ascoltatori, questo si autoesclude e poi dà la colpa a me, un sì, capro sì. Espiatorio a scelta. Capro espiatorio sei tu questa sera. Grazie. O in alternativa i nostri ospiti, My Old Olivetti, anzi ce la giochiamo io e te e scegliamo che sono loro i capri. Capri, diamogli del rosmarino così li insaporiamo. Rosmarino per loro e anche tante domande da parte tua, vai Favotto. Sì, ci dicevate nel fuori onda che siete un gruppo neonato in un certo senso, ma che ha già partorito qualcosa. Proprio vi è stato tagliato il cordone ombelicale da pochissimo, ma già siete prolifici. Sì, diciamo di sì. Allora, ci siamo formati 2 anni fa, a luglio di 2 anni fa circa, e la formazione era già, faceva parte Nicola, la Martina, che è la nostra chitarrista, e Simone al basso. Ah, all'inizio erano loro tre. C'è anche una musa femminile. Esatto. C'è anche una musa e morosa del bassista. Ah, va bene, potevamo anche instaurare i rapporti professionali senza dire che c'erano delle vicissitudini sentimentali in mezzo. Sì, ci sono non già dei tramazzi. Non ascoltatelo, che con quell'occhio lì, gli ascoltatori non lo vedono, ma con quell'occhio lì c'era il secondo fine. L'occhio balbo. Esatto. E niente, diciamo che all'inizio erano loro tre, poi tramite un annuncio, mi pare. Su Affare Fatto? Esatto. No. Abbiamo fatto un casting lungo tutta l'Italia come X Factor. Sì, e in pratica il e primo la scelta ricadeva su, come si chiama il tizio lì? C'era la Maionchi, Morgan, Tony Maiello e tutta quella bella gente lì. Esattamente, sono saltato fuori io dalla dura selezione. Spunta c'era, lui. C'era una finale lui il Gabibbo. Hanno scelto me perché ero più leggero. Esatto. E niente, poi a noi si è aggiunto Davide, il batterista. E quindi per una somma totale di componenti, perché io di matematica... Di 5. Ecco, e capiamo che 1 più 1 più 1 più 1 più 1... Fa 5. Bravissimo. Anche se ricorda che in casa Radiohead 2 più 2 fa 5, per cui anche lì i conti non tornano. Adesso in casa Orwell in realtà è una citazione, no? Sì, in casa Orwell, perché l'avevano preso da lì, va bene. Guarda qua, abbiamo trovato un altro che ci controlla. C'è. Dio, mi perseguitano. Grazie di esistere. Cioè. Torniamo sulle strade di My Old Olivetti e parliamo di Sempre che non nevichi, che è la traccia che presenteremo tra poco. Tra l'altro, caro Favotto, festeggiamo prima traccia che presentiamo in italiano di ospiti italianissimi. Perché avevamo già avuto un'anticipazione di traccia in italiano quando è venuto Strifu, perché cioè, però erano le tracce portate dall'ospite, e questa volta abbiamo una traccia in italiano. Anche che avevamo i The Souls, che ci hanno presentato una traccia in inglese, così la stessa cosa hanno fatto i Seven Sisters Hot Peluches, l'hanno fatta i Dunkelblau, per cui sì, tutti quelli che sono passati in casa Music for Youth non hanno presentato nulla di italiano, per cui complimenti ai Maio Deliventi, cioè bene, perché spesso la nostra lingua è tralasciata, possiamo dire tralasciata, sì, lasciata ai margini, perché molti anche local puntano a utilizzare l'inglese come strumento di comunicazione musicale. Sì, sì, sì, sì. Poi magari parliamo di questa parliamo scelta di questa dell'italiano. Cosa, che solo adesso viene in mente le nostre menti impolverate. Guarda che questa poteva essere una domanda intelligente, non la stiamo facendo. La ricicliamo per dopo. E invece parliamo di Sempre che non nevichi, come si diceva. Chi è che scrive i testi a casa vostra? I testi, almeno delle canzoni che si possono sentire adesso, sono già stati scritti da Nicola. Al momento della formazione, quando sono entrato io, erano già scritti. Uh-huh. E magari qualche indicazione sulla canzone credo che sia giusto che la dia lui, visto che è il diretto interessato. Vai, prego, Nicola. Prego, prego, prego. Di cosa ci parla Sempre che non nevichi? Parla di meteo. No, è sempre che non nevichi, parla insomma di una cosa che avevo letto, di un progetto che c'era tra dei ragazzi israeliani e dei ragazzi palestinesi, ecco, collaboravano, non mi ricordo se un giornale o che altro progetto, ma comunque l'idea di fondo è un po' di, come dire, che gran parte secondo me della popolazione di quelle zone lì è un po' stanca della guerra e di queste cose, che in realtà i loro governanti non li ascoltano. Tra l'altro, cioè, domanda, i testi che tu hai scritto sono tutti legati a temi tra virgolette di attualità, o ci sono anche dei rimandi a vita privata o a un vissuto che più che altro si gioca qui? Solitamente non parlo mai di me, però in realtà parlo sempre di me e quindi e di quello che sento e provo. Comunque mi faccio molto influenzare, ecco, dall'attualità solitamente, quindi da magari qualche notizia che mi colpisce e su cui poi vado un po' a lavorare. Beh, allora io direi che andiamo a sentire i My Old Olivetti e questa è Sempre che non nevichi su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.8. Thank you. sempre che non nevichi, Maioldo Olivetti su Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood 97.8, bentornati in Music for Youth con ospiti per l'appunto i Maioldo Olivetti. Alvise e Favotte, è il momento di giocarci la nostra scommessa della settimana, cosa che abbiamo cominciato a fare da un po' di settimane per l'appunto a questa parte. Chi cerchiamo di lanciare dal balcone questa settimana? Le pene di essere dei puri di cuore, in sostanza. Ossia, the pains of being pure at heart. Esatto, non è tanto una scommessa, ad essere sinceri, ossia è una scommessa in territorio italiano. Sì, hanno già vinto da altre parti. In Inghilterra già spopolano, tra l'altro il loro album di debutto è stato scelto come uno degli album che una nota, non so se posso fare il nome, è una nota, un noto gruppo di negozi che gira per, in sostanza, tutta l'Inghilterra. Vabbè, fallo, cioè, che cacchio ti frega? Perché? È troppo farlo, va bene. Forse facciamo pubblicità, meglio di no. Meglio di no. Noi non mostriamo le Marlboro in sì, esatto, noi non sottofondo. Sappiatelo che noi nel mentre in cui la trasmissione avviene abbiamo delle grosse bottiglie di Martini. Fumiamo Muratti. Insomma, i Pains of Being Pure at Heart sono stati scelti e il loro CD viene promosso per tutta l'Inghilterra in maniera abbastanza massiccia, e loro stanno ottenendo un notevole riscontro. Ottimo risultato. Allora avevano pubblicato un EP nel 2007 da 5 tracce per la Paintball Records, sono stati scoperti subito. Diamo una coordinata spazio-temporale, sembra di stare nel Regno Unito del 90s, e invece questi vengono da New York. Esattamente, sì. 90s perché comunque sono molto calati come sia come musica che anche come impostazione vocale, secondo me, su i tardi 80, primi anni 90. Loro sono un duo, se non sbaglio. No, lo dici bene. Forse hanno qualche strumentista aggiunto per il tour, ovviamente. Ma siamo così precisi noi? No. Comunque, se avete 34 minuti esatti da sprecare della vostra vita, fatelo, perché il loro CD dura veramente poco. Sono, mi pare, una decina di tracce, per cui fatevi 3,4 minuti a traccia. Ascoltatevi Pensa in più retate, se non avete 34 minuti ci metterete qualcosa meno, perché nel frattempo ve ne scaliamo una noi, esatto, dal loro CD che porta il nome omonimo su Music for Youth e RSD 102-100 Radio Sherwood 97.8. Pains of Being Pure at Heart. Questa è Alvise, come si chiama? Questa è This Love Is Fucking Right. Sister, can you find the words to say? 102.2 Radio San Donà, 97.8 Radio Sherwood. Questo è Music for Youth per il sociale. Il caldo e le vacanze si avvicinano, e con questo le case vuote, e con questo il pericolo di furto negli appartamenti. Music for Youth, l'allarme domestico. Io e Lele, se ci telefonate allo 0421 560993, ci sediamo nel vostro salotto, e se qualcuno tenta di fare irruzione iniziamo a fare questa suoneria. Wow, wow, wow, wow, wow. Penso abbiano capito. Esatto. Poi ho una seconda sonorità se ci scrivete via fax, ossia componendo lo 0421 560994. Lele fa, Lele abbaia, io mi agolo. E questo di solito mette molto in soggezione. E poi l'ultimo, irreprensibile e soprattutto insuperabile, verso del fagiano, cosa vuoi fare? Io volevo fare il delfino, però non importa, scriveteci a radio@radiosandona.it e vi viene data una sonorità in omaggio. Possibilmente quella del fagiano, perché quella del delfino è un po' difficile, altrimenti qualcosa ci suggeriranno i Maioldo Olivetti tra poco. Io intanto vi ricordo Maioldo Olivetti, che vorrei ricordare già ci adottano come suoneria. Sì, bravo. Infatti hanno già dato la loro caparra, noi siamo prenotati per la prima settimana di agosto. Esatto, siamo in casa dei Maioldo Olivetti perché loro abitano tutti insieme. È una comune. Esatto, sappiate, un kibbutz. Comunque volevo ricordarvi anche che abbiamo una pagina su Sherwood, la trovate dalla home page o dai programmi settimanali. Potete abbonarvi agli RSS feed per il podcast, stesso podcast che potete trovare anche sull'iTunes Store a gratis, perché noi non vi faremo mai pagare niente, figuriamoci, per ascoltare sta robassa. E infatti no, vi paghiamo noi per ascoltarci, grazie. Diamo a tutti dei panini con la mortadella se venite qua sotto. Panini con la Battisti. Panini con la mortazza per voi, anche se andate sul gruppo in Facebook che si chiama Music for Youth, YOUTH per i non anglofoni. Trovate anche il nostro blog musicforyouth.wordpress.com. Da tutti questi indirizzi internet, tra cui quelli di Sherwood, come vi ho detto, vi potete scaricare l'MP3 della puntata podcast o ascoltarci in streaming se non volete appesantire il vostro disco rigido. Appesantiamo invece le menti dei Maioldo Olivetti con una nuova domanda da parte di Alvise Favotto. E questa domanda è pregna di originalità. Quali sono le vostre principali influenze musicali? No? E c'è il vuoto? È stato un momento La sto pensando. No, dai, diciamo che ognuno di noi proviene da esperienze diverse. Da esperienze diverse, sì, perché diciamo io avevo un altro gruppo prima, Davide il batterista pure. Loro tre pure suonavano prima di noi e comunque avevano dei gusti differenti. Per quelli che riguardano me, posso dire, farmi venire a galla dei nomi, posso dire gli After Hour, mi piacciono molto. Ottimo, qui ecco. Le braccia si alzano con un voto più. Sì. Verdena, cose di questo tipo, sull'alternativo italiano anche Marlene Canza, tanto per dire i nomi più famosi, insomma, senza andare in gruppi più piccoli. Poi non so, Nicola, per esempio, un gruppo che ci Radiohead, si parlava prima, ma anche come sonorità ci stiamo spingendo verso un certo tipo di indie rock con qualche influenza elettronica, quindi diciamo anche Sparklers, Lils, Beck o quant'altro, ecco. Di simile. Oh, un bel... se posso consigliare un album che ho appena preso, ma bellissimo, consiglialo assolutamente. Ma guarda, il solista del cantante Sigur Rós, Jonesy. Go, meraviglioso. Go è un capolavoro. Go è un capolavoro. Veramente. Infatti, dopo Vio Spilum and the Lost, Jonesy ha deciso di staccarsi ai Sigur Rós, ha dato vita a questo progetto. Forse Godo, che è il primo singolo estratto da quell'album in inglese, perché per la prima volta non canta in Opelandic ma in inglese. Sì, tra l'altro. Potremmo anche metterlo un giorno o l'altro. Sì, poi tra l'altro c'è anche fa parte anche della colonna sonora di un cartone animato che io li vado a vedere, a me è piaciuto molto, che è quello in cui si lezioni di drago lezioni di qualcosa, aiuto. Beh, ho capito più o meno. Benissimo, non, io non spero che anche tutti gli altri che ci ascoltano, quei 5, abbiano capito anche loro. Comunque lì c'è Jonesy. Occhio al collegamento, tu hai detto colonna sonora e questo mi dà lo spunto per passare al pezzo successivo, perché io l'altra sera mi sono guardato Lost in Translation e ho detto, c'era di sottofondo una canzone, e ho detto, beh, questa canzone è un'ottima canzone, è una canzone shoegaze, loro sono i My Bloody Valentine e noi abbiamo scelto di metterli a Music for Youth con un pezzo del loro forse album migliore, che è Loveless, che è Sometimes, per l'appunto. Io, tra l'altro, adesso tornando alla colonna sonora di Lost in Translation, io da fan, tantissimo di fan Sofia. Non di Sofia Coppola, ma dei Banco de Gaia, che sono degnamente rappresentati in quella colonna sonora lì, io la suggerisco tutta quella colonna sonora e in generale le colonne sonore che accompagnano i film di Sofia Coppola, perché lei ci tiene particolarmente, le cura un sacco. È in uscita a settembre, verrà presentato al Festival del Cinema di Venezia, Somewhere, che è il suo nuovo film. L'ultima fatica. E guarda che ti ho sentito in sottofondo nella presentazione del trailer, una traccia di Julian Casablancas, che era You Only Live Once, che noi abbiamo già portato, però in una traccia demo veramente ottima, suonata allo xilofono con qualche altro strumento molto basico. Cat Power, anzi no, scusa, i Phoenix con Love Like a Sunset. Tra l'altro Phoenix, che è fidanzato con Sofia Coppola, capisci perché? Fatalità, tutto in vaniglia. Se la giocano in casa. Torniamo, perché i tempi sono stretti. 35 minuti, Ale, non abbiamo presentato, siamo praticamente al quarto pezzo. Insomma, parliamo di questi showgaze, che vuol dire... Auto diciamoci che siamo dei cialtroni. Che vuol dire fissa scarpe, perché la stampa inglese ogni anno dopo anno deve pur scegliere un qualcosa, un termine per fissare un certo genere, e questa è quella volta, perché sono anni... decenni, è passato, quanti anni sono passati? Ormai 20? Ormai fa quasi 20, no, non 20, però... Cosa, 90 e rotti? 96, se non sbaglio. Così tardi, ci dobbiamo documentare. Beh, vabbè, perché ti dico che My Bloody Valentine, anglo-israelesi, 1984 si formano. Ci avevano pensato Jesus and Mary Chain prima a dare vita a questo showgaze. Poi loro sono arrivati e li hanno poi... Anche loro presenti, se non sbaglio, nella colonna sonora di qui. Bravissimo, con Lost in Just Like Connie, ed era in chiusura di del film Lost in Translation, che vi consigliamo. Quante cose stiamo consigliando? My Bloody Valentine, insomma, hanno portato all'estremo quanto sono riusciti a elaborare Jesus and Mary Chain in corso d'opera. E tra l'altro, quello che però a me piace, sinceramente, adesso stiamo parlando di uno dei miei gruppi preferiti, io ve lo dico così molto tranquillamente, quello che a me piace dei My Bloody Valentine è che forse arrivano a dei... cioè, loro sono molto ritmati, anche molto veloci in determinati casi. In Loveless trovate una canzone che secondo me è un picco di dolcezza, che noi qui non mettiamo, si intitola Blown a Wish, e a me piace tantissimo. Ecco, basta. Invece mettiamo Sometimes, perché i tempi si fanno stretti. Sì. Vero Favotto? Sì, e l'inverno si avvicina. Mettiamo Sometimes, e questi sono i My Bloody Valentine. E questa è Music for Youth, per i non anglofoni. E bravissimo Favotto. Grazie Terzariol. 97.8 per Radio Sherwood, 102.2 per Radio San Donato. E questa era la bellissima Sometimes the My Bloody Valentine su Music for Youth. Bentornati in nostra compagnia, stiamo stretti di tempi, favotto, e andiamo a presentare immediatamente, sempre sull'onda dello Showgaze, un nuovo pezzo, gli M83 o M83. O M83, perché bravissimo. Loro sono francesi. Bravissimo, loro sono un duo francese, hanno dato alla luce due o tre album, ora non ricordo più, ben tre album, mi fa segno con i ditini al vise. I diti. Pensa che uno dei due di cognome fa Fromage, e l'altro ritorna, è un ritorno Gonzales. Vabbè. Come chi, non facciamo gli studiati, come Gonzales, che è un ottimo pianista. Sì, nonché attaccante del Vicenza, un ottimo pianista, jazzista, polistrumentista in realtà, perché lui ha un disco che io consiglio caldamente di piano solista. Che si chiama per l'appunto Solo Piano. Solo Piano. Lo ascoltiamo io e Favotto nei nostri momenti eterei. Sì. Sotto, cioè, mescalina. In sostanza in bagno. E poi ha una serie di altri dischi. Cioè lui è, tra l'altro, io credo non dorma in quanto è estremamente prolifico. È iperproduttivo. Sì, un silos in sostanza, ma quest'uomo ha degli altri dischi, non solo per piano, in cui fonde generi di varia natura, specie e forma, e noi vi consigliamo la discografia completa. Non so cosa si dice in questo caso, scaricatevela. Scaricatevela legalmente. Legalmente. Promuovete la buona musica legale. Esatto. Legalize it. Da Antibes, Francia. Esatto. Io direi che è arrivata immediatamente l'ora di presentare gli M83. Esattamente, questa è la ragazza dalle tombe, sostanza. La tombarola, Graveyard Girl, dal disco che probabilmente noi ci sentiamo di consigliare degli M83 o M83. M83 che mi fa pensare a quelle chat tipo qual è la tua donna ideale, carina, simpatica e carina. Sì, dai, Favotto, stringi. Comunque, Saturday Equal Youth, vieni da Antibes, alla sera farai qualcosa, voglio dire. M83, RSD 102.2, Radio Share 97.8. da Saturday is Youth M83, questa era Graveyard Girl su Music for Youth, guarda caso. Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-800 se ci ascoltate in streaming. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Favotto, con occhi persi e stanchi guardi un tavolino che a te ti somiglia per le forme squadrate. Hai una nuova domanda nel senso che anche io sono dicompensato, esatto, soprattutto la parte truciolare che sta dentro il tuo cervello, esatto, truciolare nell'intimo, una segheria. Hai nuove domande per il My Old Olivetti, ospiti questa sera con noi. Sì, esattamente, prima parlavamo di gusti e ci facevate il nome di alcuni cantanti, cantautori italiani, e si parlava e si diceva qualcosa invece di internazionale, e adesso andiamo a presentare una vostra scelta musicale. Chi ci portate? Con chi ci deliziate? Allora, abbiamo portato un disco di Sparklers, insomma le motivazioni sono tra le più disparate, soprattutto amore. Perché sì, amore sicuramente al primo ascolto, e perché comunque lo ritengo un artista che ha lasciato molto, molto materiale, molte buone idee, e perché insomma anche come gruppo il suono, ecco, di e la ricerca musicale di Mark Linkous, mm-hmm, insomma ci sta influenzando parecchio, ecco, soprattutto queste chitarre un po' acide, queste incursioni elettroniche, queste voci un po' a volte sussurrate, a volte un po' gracchianti, e un po' questa. Infatti, ti ho interrotto? No, volevo dire che sì, era giusto per un attimo di storia. Purtroppo è un amore non più corrisposto quello di Mauro Olivetti, perché Sparklers è deceduto. Eh sì. Per suicidio? Mi sa di sì. Mi sa di sì, come tra i migliori cantanti. Come dovremmo fare anche noi. Pochi mesi fa, e adesso è uscito da poco su CD fisico un lavoro con Danger Mouse che si chiama Dark Knight of the Soul. Qui con Daniele continua a tirar fuori il suo idolo Danger Mouse. Vabbè, insomma, no, comunque, no, è soprattutto per il lavoro di Sparklers. Potete scaricarvelo questa volta illegalmente, perché per un anno è andata avanti questa diatriba con la casa discografica che doveva produrlo. Lo potete trovare in internet, che hanno deciso di metterlo a disposizione di chiunque. Comunque c'è anche la copia fisica legale. Io vi consiglio di fare le cose sottoterra come le talpe. Io ho fatto così, e siete nella legalità, perché questa volta è stato deciso così. Volevo chiedervi invece se il vostro suono si è modificato da quando, perché conoscendo l'artista che ci avete portato, il suo suono si modifica nel tempo anche abbastanza. Cosa vedete nel vostro futuro? Pensate di rimanere in linea, perché ci dicevate prima che i pezzi erano qualcosa di già registrato, però ne avete di nuovi? Sono in linea? C'è qualcosa di nuovo? Come vedete il vostro futuro musicale? Siamo partiti che assomigliavamo ai Beach Boys, stiamo puntando ad arrivare alle sonorità un po' indie elettroniche dei Postal Service. Per ora ci siamo fermati ai Weezer, quindi siamo a metà strada. I Weezer, un'isola, un'isola nel sole per voi, Island in the Sun. Sì, sì, sì. Sono partiti con i Beach Boys. Devono far surf. Avranno bisogno, voglio dire. Comunque, per chi non conosce i Postal Service, sono la costola di Death Cab for Cutie, perché il cantante è lo stesso. E questo vi ispirerà Twilight, che è un film che noi non andremo a vedere, perché intanto saremo a vederci Somewhere di Sofia Coppola, come si diceva. Sì, sì, sì, esatto. Diamo spazio alla musicale. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Questa è Piano Fire. Sparklers, Music for Youth. Piano Fire, Sparkalos, Music for Youth. È arrivato il momento dei saluti per noi, siamo in chiusura di puntata. Alvise, non fare la faccia triste come quella di un bonobo o come quella di un husky in estate. Bravissimo, è sempre un paragone che a me piace, una barca. Siamo arrivati in chiusura, come si diceva pochi secondi fa. Dobbiamo fare un po' di saluti innanzitutto, sì, dobbiamo salutare l'Unwound Club che ormai sta chiudendo per la stagione. Ci si rivede a settembre più belli di prima. Sì, ma è giusto che dopo la stagione che hanno fatto e i gruppi che ci hanno portato vadano un po' in ferie, perché voglio dire, cioè, delle ferie assolutamente meritate. Gran lavoro ragazzi, complimenti. Intanto ci pensa la Mela di Newton in collaborazione con l'Unwound a organizzare staccano visti le serate padovane, sì. E andate ad ascoltarvi Current 93 l'8 luglio. Sì, noi ci saremo molto probabilmente. Contemporaneamente saremo presenti spesso a Sherwood Festival. Ringraziamo sempre Sherwood per le frequenze. Sì, e per il festival in realtà. Sì, per perché il festival, le date sono sempre belle. Dei nomi grandiosi che raccolgono un po' tutti i gusti che vi possano venire in mente. E non solo, perché poi ci sono delle serate con presentazione di libri e altra arte, se si può. Se posso dire arte, cioè detta da me, voglio dire, sembra. Che è come parlare con un cassettone di IKEA senza i pezzi. Esatto, giusti. E non sapete montarlo. E altra arte che secondo noi è una cosa assolutamente pregevole. Noi ci saremo, avremo probabilmente delle magliette ridicole rosa tinta pelle di persona non abbronzata in modo da farci riconoscere. Molto probabilmente ci beccherete anche in diretta, un palinsesto cambiato, forse ci sentiamo direttamente dagli studi di Padova al posto che dalle sede staccata di San Donato nel nostro sgabuzzino sempre bello. Esatto, verremo a trovarvi, stiamo organizzando una gita che per noi è un po' un problema adesso, io siamo qui che cerchiamo con le nostre famiglie di organizzare un pranzo al sacco, non so se ce la faremo. Possiamo smetterla di dire cavolate e ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui. Dico l'ultima mezza cavolata: se volete pagarci la trasferta, tutte le donazioni sul gruppo Facebook Music for Youth YUTH per i non anglofoni, oppure trovate il blog musicforyouth.wordpress.com o la pagina sito di Sherwood, ve lo dico molto in velocità, però da questi tre indirizzi web potete trovare tutto quanto e soprattutto scaricare e ascoltarvi sempre il podcast di questa trasmissione, nonché la traccia dei My Old Olivetti ospiti questa sera con noi, sempre che non nevi, che l'abbiamo presentata inizio puntata. Adesso siamo verso la fine, tempo di salutare e cedere la parola a loro, perché è il momento per voi dire tutti i contatti che volete. Sì, allora prima di salutare tutti, di ringraziare tutti, anche voi che ci avete ospitato, dico il nostro indirizzo della pagina internet su MySpace, www.myspace.com/myoldolivetti, e siamo anche su Facebook, quindi se cercate My Old Olivetti su Facebook, l'indirizzo è www.facebook.com/2344y, mi raccomando l'y, c'è un y. Altrimenti cercate My Old Olivetti tutto attaccato, semplicemente tutto attaccato. No, ma è proprio My Old Olivetti tutto attaccato. Sì, non cercatelo staccato perché magari vi viene fuori la macchina a scrivere, quindi ecco. Infatti, che poi andiamo a arricchire altri gruppi che non sono quello nostro e quello loro, e questa cosa ci secca veramente tanto. Ma è il gruppo di un calcolatore con un rotoletto di carta attaccato. Anche se su Google devo dire che compare staccato, non si sa perché, non si sa chi l'ha messo comunque. Sai com'è, di internet non portano tutti a Roma. Ci sarà un processo. Posso aggiungere? Prego, prego. Beh, volevo salutare gli altri componenti, quindi anche Martina, Simone e Davide, che stasera non sono potuti venire. Poi volevo dare un consiglio per gli acquisti. Certo! Si parlava prima di gruppi italiani che cantano in italiano, non ce l'ho con i gruppi italiani che cantano in inglese, perché ce ne sono di veramente bravi, per esempio gli Toys Orchestra. Sì. Chiudo la parentesi. E gruppi di italiani che cantano in italiano, quest'anno secondo me sono usciti due bellissimi dischi, ossia quello di Virginiana Miller, Il primo lunedì del mondo. Sì. Bellissimo, veramente bellissimo. E quello di Perturbazione, Del nostro tempo rubato, che è un capolavoro secondo me. Sono tornati ai tempi in cui secondo me facevano dei gran capolavori. E chissà se agosto sarà il mese più freddo dell'inverno. No, sì. Il mese più freddo dell'anno. Il mese più freddo dell'anno. Grazie che mi avete corretto. Guarda, cioè è inutile che ti impunti, non c'è Simone. Fortunatamente abbiamo i My Old Olivetti qui che dimostrano di saperne più di noi. Beh, questo non è che sia una novità. Però qualcuno finalmente ti ha argina Terzariol. Qualcuno ti argina. Indovina un po', bastone sulla nostra schiena anche per questa volta, perché abbiamo appena sporato l'ora e dobbiamo ancora presentare la traccia di chiusura. Il record dell'ora spetta a noi. Ciclismo per loro. Saddle Creek Records, stiamo per presentare la traccia di chiusura su Music for You for questa settimana. Lui è Bright Eyes, al secolo Conor Oberst. Sì, tutta la puntata parliamo di estate, questo si chiama Kono. Vabbè, se vuoi fare anche Kono. Insomma, di segnalazione. Lui usciva dai Commander Venus, la sua storia si perde nella notte dei tempi. Nella notte dei tempi è una storia biblica. Ha dato vita 25 gennaio del 2005 a due album paralleli. Uno si chiamava Digital Arts in a Digital Digital Ash in a Digital Urn, nel quale ascolteremo Easy Lucky Free, e l'altro invece è I'm Wide Awake It's Morning. Sono usciti contemporaneamente, uno è elettrico, l'altro è acustico. Sì. Ve li consigliamo entrambi. Sì, assolutamente. Ci sì. sono anche tutta un'altra serie di album. Se avete tempo e voglia, sentiteveli. Bright Eyes è un'altra classica persona che non dorme. E se mi permettete, io questo pezzo lo dedico a tutte le persone che hanno avuto il buon cuore di ospitarmi in Scozia e di tenermi lì per questo anno e mezzo in cui sono mancato alla Sandona da bere. Thank you guys, hope to see you all as soon as possible. Grazie Maiolo Olivetti su Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood 97-800. Ci vediamo al festival Glasgowlandia. Thanks a lot. Grazie Terzariol. Bright Eyes, Easy Lucky Free. We'll be right back. don't you weep, don't you weep, don't you weep.